Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio e buon anno a tutti. Puntata del 31 dicembre, l'ultima dell'anno. Non potevo che passare, anche perché poi abbiamo da fare con il mio amico Mario Boni. Ciao Mario. Ciao Carlo e buon anno a tutti. Poi andiamo a una festa. Eh beh certo, ci mancherebbe, sempre pronto. Fuori di qui si comincia a festeggiare il Capodanno. Se volete potete venire anche voi, soprattutto se vi piace la pallacanestro. Ma anche se non vi piace, oggi siamo buoni. A proposito di buoni, il tema della puntata con Mario Buoni, quale può essere secondo voi? Se non lo sai, buoni o cattivi, non è la fine. Scusa Mario, 31 dicembre, buoni o cattivi della stagione del basket? Era necessario, non tirate lavatrici dai terrazzi. Attento quando esci di qui. Coach Dan Peterson, buon pomeriggio. Ciao Carlo, buon pomeriggio, buon anno a tutti. Buoni e cattivi della stagione, coach, cominciamo da te. Chi metti in testa la lista dei buoni? Le buoni mettiamo in New York, se parliamo del New York Knickerbockers, Danilo Gallinari, Mike D'Antoni e soprattutto Mario Stoudemire, una delle squadre sorprese dell'NBA, assolutamente. C'è proprio quando erano a 3 vittorie e 8 sconfitte, non penso che nessuno avrebbe mai pronosticato loro proprio nel quartiere alto della classifica NBA. Quindi Danilo, anche lui, dopo un inizio molto stentato, ha fatto veramente un bel recupero. Mike è stato molto criticato, anche pure lui, pure Donnie Walsh, tutti quanti. Quindi tutta la squadra di New York Knickerbockers veramente hanno fatto un capolavoro nel mese fine novembre, inizio dicembre. Sei d'accordo, Mario? Beh, New York effettivamente ha fatto un grande recupero, però Mike D'Antoni, io so che il coach Peterson è un grande stimatore, però a mio avviso avrebbe potuto fare anche meglio, però insomma diamogli il tempo di lavorare, farà sicuramente meglio, ancora meglio nel 2011. Piano a parlare di Mike D'Antoni, perché io da piccolo tutti avevano l'immaginetta dei calciatori, avevo quella di Mike D'Antoni. È stato un eroe un po' di tutti noi. Coach. Assolutamente, cioè Mike, poi anche un ultimo commento che faccio su Mike e Donnie Walsh è che il mercato non è finito ancora, non dico Carmelo Anthony o qui o là eccetera, ma loro stanno veramente cercando di aggiungere almeno un pezzo forte o due pezzi forti per avere il quintetto base che è solido e nessun altro giocatore solido, due altri giocatori solidi, quindi vedremo Mike D'Antoni, perché quando lui era a Phoenix aveva 7 giocatori da ruotare di altissimo livello, a New York non ce l'ha mai avuto, io voglio vedere lui con questi giocatori, poi farà assolutamente meglio, questo sicuro. Mario, in cima alla tua lista dei buoni invece c'è Siena, scommetto, o qualcun altro? Beh, parlando del campionato italiano, Siena è quella che più ha dominato e ha fatto vedere un gioco molto bello, molto convincente, quindi non può che essere Siena. Lui e soprattutto Simone Pianigiani, che ha dato, nonostante i cambiamenti di quest'estate, è riuscito ugualmente a imporre il suo gioco e la sua filosofia. Sì, nel 2010 però il grande obiettivo era l'Eurolega ed è sfuggito. Cioè, sì. Quantomeno arrivare al gran finale di Eurolega, alle Final Four, quello era l'obiettivo dichiarato di questa squadra, che al quella termine di McIntyre era a fine ciclo, non è stato centrato fatta quell'obiettivo. Sì Carlo, non ce l'ha fatta, però mi viene da dire che se il budget deve essere un indicatore del valore di una squadra o della potenzialità, devo dire, sai, che le due greche, che è la squadra CSKA di Mosca piuttosto che Barcellona e Real Madrid, hanno più potenzialità di Siena. Per il budget a disposizione Siena ha fatto abbastanza. Coach, il 2010 è stato anche l'anno in cui gli Stati Uniti sono tornati a vincere il mondiale, l'anno in cui la grande platea ha scoperto Kevin Durant. Assolutamente, ma la cosa, a parte la scoperta di Kevin Durant come giocatore, forse il migliore giocatore del mondo insieme a LeBron James, ok, veramente una cosa eccezionale, un 2,08 metri che ha l'agilità di un piccolo, di un playmaker che tratta la palla, che tira, che fa stoppate, braccia lunghissime, eccetera. Però la cosa importante è che loro hanno vinto questo mondiale senza nessun giocatore dalle Olimpiadi di 08, quindi squadra totalmente rinnovata con 12 nuovi giocatori, molto ben plasmati, scoperto anche Kevin Love, tanto per dire, e la squadra veramente ha fatto dei progressi attraverso il torneo, perché all'inizio qualche partita difficile hanno avuto, poi man mano che è andato avanti, cioè hanno fatto vedere tutto, anche se parlando con Bogdan Tanjevic, che è nato la Turchia, il calendario è stato leggermente a sfavore della Turchia che è giocata la sera prima, poi sì, con pochi riposi dovevano giocare contro gli Stati Uniti, ma non toglie niente dagli americani che hanno giocato veramente da Dio, non c'è niente da dire su questo. I padroni sono tornati. Tornati al vertice, assolutamente. Eh sì, quello che mi ha sorpreso poi degli americani che si sono adattati a quelli che erano i regolamenti, chiamiamoli tra virgolette, i regolamenti europei, e nonostante questo hanno dominato questi campionati del mondo, quindi al di là delle scuse della squadra turca, direi che gli Stati Uniti, insomma, quando vogliono mettono una squadra più forte in assoluto. Mario, dove lo metti Sergio Scarioli invece, che non è riuscito a ripetere il miracolo spagnolo, quantomeno a portare la Spagna vicino a quel miracolo? Sai, bisogna dire che mancava Pau Gasol, quindi era un attenuante. Di certo che la Spagna ha una formazione molto competitiva, non si può sempre vincere, mi viene a dire così. In ogni caso Scariola è un ottimo allenatore, lo sta facendo adesso vedere ancora il Kimke. Coach, invece, LeBron James e la sua scelta pubblica, le sue dichiarazioni, anzi sentiamola, la famosa, è stato uno dei, insomma, dei trailer dell'anno, no? Le dichiarazioni di LeBron James quel giorno, quella sera. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. Coach, dove lo metti questo? Well, ovviamente LeBron ha sbagliato, cioè diverse cose. Uno, se dovesse fare una scelta, magari avrebbe fatto bene rimanere a Cleveland, come ha detto Michael Jordan, come ha detto Charles Barkley. Vieni con la tua squadra. Cioè Larry Bird non ha mai chiesto a Magic Johnson e Larry Bird di unire le forze per fare qualcosa. Uno. Due, se deve andare via proprio da Cleveland, non vai a Miami, ne vai a New York. Cioè New York è New York, la città più importante del mondo. Terza cosa, il modo di farlo con una conferenza stampa, non avvisando la società. Lui ha fatto una figura veramente non positiva, anzi lui sta cercando adesso con i suoi nuovi consiglieri a un po' ridimensionare questa figura che ha fatto lui, perché veramente è stato criticato a morte per quello che ha fatto da tutti. Non c'è uno che abbia detto ha fatto bene farlo, e ha fatto bene anche con lo stile. Le hanno veramente fatto la vivisezione per questo qui, e lui anche la pubblicità che fa adesso dice: che decisione avresti fatto tu? Chiede al telespettatore. La decisione è che non avremmo certamente fatto come hai fatto tu, caro LeBron, perché lui è stato consigliato dai suoi amici di infanzia. Ma cosa sanno i suoi amici di infanzia della realtà della vita? Sono quelli che sono, non voglio dire parassiti, okay? un po' pesante dire questa così, perché sono attaccati a LeBron sin da, non so, dal liceo, ok? Quindi sì. Non possono assolutamente avere una prospettiva mondiale o diciamo anche nazionale su quelle cose lì. Consigliato male, eseguito male, risultato negativissimo. Avrà un modo solo per farsi perdonare dal mondo, che è quello più banale, quello di vincere, dimostrando che forse aveva ragione. Esatto, e lui sta giocando molto bene, lui, la squadra sta giocando molto bene adesso, dopo un inizio molto, ma molto stentato, mentre loro cercavano di trovarsi, tanto per dire lui e Dwayne Wade e compagnia, tutti hanno fatto, sia lui che Wade che Bosch hanno avuto momenti veramente di rendimento basso, però hai ragione, lui per convincere il mondo che ha fatto la decisione giusta, anche se lo stile è stato da rivedere, deve vincere qualcosa il titolo NBA. Coach, grazie, ci vediamo dopo a casa di Mario Boni con tutti a fare la festa. Ciao Coach, buon anno. Buon anno, a venerdì prossimo, sarà già 2011, ma Palla Spicchi naturalmente tornerà. Mario, immagino che tu fossi andato da Montecatini a Pistoia, fai una bella conferenza stampa, no? Adesso vado da Montecatini, dopo che LeBron James 7 anni lì, insomma, era il simbolo della città, di tutto quanto, come eri tu per Montecatini. Certo, vado a Pistoia. Immaginati il derby successivo a Montecatini. Ma uscire vivo anche poi dalla conferenza stampa, ti dirò di più. Ma in ogni caso, se anche dovesse vincere LeBron James, non raggiungerà mai i picchi vertici di un Michael Jordan, di un Magic Johnson, di un Larry Bird, perché un conto è vincere con la tua squadra, come diceva Coach Peterson, un conto è quando ti muovi e chiami raccolta altre persone. Quindi non mi è piaciuta, e tre cattivi, libro nero per LeBron James. Allora, adesso ci fermiamo per il traffico, subito dopo torniamo insieme per Buoni e Cattivi del 2010. Palla Spicchi. Ecco che torniamo, Buoni e Cattivi del 2010 con Mario Boni qui su Radio 24. Abbiamo parlato di Siena e di Pianigiani, Mario, ma Pianigiani in nazionale, nella colonna dei buoni o in quella dei cattivi? Guarda, io lo metto nella colonna dei buoni. Perché tu mi dirai? Perché in ogni caso non è facile, come si è visto con Charlie Recalcati, in situazioni diverse, con giocatori in, con motivazioni diverse, sai, integrare Bellinelli e Bargnani in un contesto azzurro dove farli giocare, ricordarsi quelli che erano gli regole tra virgolette sempre europee, non era così scontato, e dopo un inizio molto stentato direi che la nazionale ha dimostrato un buon livello, ha fatto delle scelte dure, forti, e quindi a me piacciono gli allenatori che sanno dare gerarchie e priorità, e credo che quello che deve fare l'allenatore sia proprio questo. E le prove di Bargnani e di Bellinelli in nazionale? Ma Bellinelli lo vedo più in proiezione NBA, nel senso che il ruolo è Bellinelli, non riesco a capire se è un 2, un 3 o un playmaker. È un giocatore atleticamente potente, però ha difficoltà qui in Europa a marcare i 2 veloci, e i 3 non è molto bravo a marcare la gente che va a spalla canestro. È un giocatore che può fare bene, è atleticamente spaventoso, però quello che più cambia le sorti nazionali è Bargnani. Bargnani, anche lì, direi che il ruolo è un 5 in Europa o un ala grande. È un giocatore sulla quale la nazionale ha puntato tantissimo, tutti i palloni passavano dalle sue mani, e quindi credo che il Bargnani abbia passato a pieni voti questo esame. Sicuramente l'uomo che più può dare qualità è Gallinari, dico un'ovvietà. Però... Che qui non c'era, però cantava. Sì. Every word I had to break is the risk that I'm taking. Ooh. And I'm never gonna let you down. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Ooh. Maybe I can see your halo. That's Beyoncé. A cantare bravissimo, a cantare bravissimo. Beh, se proprio devono essere buoni, bravissimo. Io lo metterei insomma tra i rivedibili. È meglio con la palla in mano il Gallo. Però a cappella, senza musica, mica facile. Non è facile. No, quello è sicuramente. Non voglio di far cantare poi, te. No, quello è meglio di no, per non far scappare gli ascoltatori. Però, insomma, la sua decisione di non venire a giocare con la nazionale, insomma, col senno di poi, no? Però stiamo rivedendo il film della stagione. Eravamo arrivati con un'Italia che non si è qualificata per gli europei, certo. Poi la porta è stata aperta dall'allargamento, anche qui rivedibile come decisione, perché non si può a giochi in corso fissare regole del gioco differenti, perché giustamente c'è Finlandia, Israele eccetera, sono lamentati pesantemente, che hanno detto avessimo saputo prima magari avremmo affrontato il girone in un modo differente. La scelta di Gallinari di non venire, tu mi guardi con uno sguardo severo. Io, sai, questo è l'anno in cui il Gallo deve monetizzare, quindi deve per forza, vuole fare una grande stagione. Le problematiche alla schiena erano ben presenti, soprattutto a Gallo padre, che l'ha consigliato di prendersi ancora un anno di aspettativa, diciamo così. Non posso criticare, non mi sento di criticare Danilo Gallinari, perché ci sono una qualificazione agli europei non ti deve far sentire in obbligo. Prima c'è la salute, prima ci sono gli aspetti, quello di giocare a New York e un contratto che da rinnovare che deve arrivare. Sì, quindi non lo infili tra i cattivi. Non lo metto tra i cattivi, non mi sento, ci sono altri che infilerei tra i cattivi, Gallo non me lo sento di tra i cattivi. E parliamo un po' di Eurolega, Mario. Certo. Questa stagione è stata quella del Barcellona, è stata quella del Barcellona piglia tutto, di una squadra onestamente spaziale, che invece alla ripresa dei giochi in Eurolega è sembrata un po' più abbordabile, un po' più accessibile. È stata battuta da Siena, insomma non ha fatto percorso netto come l'anno scorso. Che è sempre la grande favorita, secondo te, o c'è qualche granello di sabbia negli ingranaggi? E qui ritorniamo agli infortuni. Gli infortuni hanno condizionato l'Inter, condizionano anche il Barça, perché sai, Navarro fuori, Michael operato. Ma non devono diventare un alibi. Perché, guarda, io tra i cattivissimi infilo non Milano, ma l'atteggiamento di Milano nella famosa partita di Siena, perché puoi perdere, ma dipende il modo in cui perdi. lì sei andato sconfitto e Siena ti ha dato una lezione e un messaggio. È stato un'umiliazione per Milano l'asfaltata di Siena, ma anche proprio come la gestione della partita, no? Tra i cattivi in quella partita infilerei tutta Milano, come nelle mie pagelle che fece al tempo, il fatto di insistere con lo spallacanestro di Hawkins contro Arradori, insomma è stato proprio un messaggio che ha dato Siena di grande potenza, e non mi è piaciuto la risposta di Milano, che è stato proprio il punching ball che prendeva, certo, Cazzotti a destra e a sinistra senza saper reagire. E non deve essere una scusante, tornando al Barcellona, voglio rivederla completo, anche Basile, ci hanno indicato di Basile che deve ritornare dopo l'operazione al piede. Devo dire che la squadra che ancora una volta mi intriga particolarmente è l'Olympiacos, del ormai andati Percy, Kleisa e Josh Childress, però di tante alte prese, e mi fanno pensare l'Olympiacos come la grande favorita. Prima o poi ce la dovranno anche fare, perché seguono in casa, battuti sempre come Materassi dal Panathinaikos. In Eurolega spendono milioni, certo, e milioni, e le prendono sempre, insomma. Sì, hanno cacciato via Giannakis, che è un po' una palla al piede. E quindi palapiede, che poi insomma finale di Eurolega, finale campionato greco, sempre bastonate, insomma la squadra c'è, chissà se il Barcellona riuscirà a inserirsi, sono convinto di sì, però insomma le squadre greche hanno sempre qualcosa di così, un roster talmente profondo che, certo, mi fanno impallidire. Senti Mario, ma tornando alla sconfitta di Milano e al messaggio di Siena, ci sono stati diversi ascoltatori che i giorni dopo quella partita hanno chiamato e hanno detto: però Siena, che prepotenti, che manifestazione di prepotenza, quello di insistere fino a quel tipo di divario su una squadra che evidentemente aveva già perso all'inizio. Secondo me, tu che ne hai giocate un miliardo di partite e continui a giocare partite, Siena ha dato una dimostrazione di antisportività, o nello sport si fa così? Si fa così, hanno voluto schiacciarli, sono arrivati con una preparazione psicofisica, Siena, dopo la battuta d'arresto di Varese, quando sulla stampa tutti i media, no, cominciavano, ripetevano: beh, Siena non è più la stessa dopo aver cambiato quattro quinti del quintetto, c'è un grande cambiamento, c'è una grande situazione, meno il cambiato è più equilibrato. Loro sono arrivati al match clou, una preparazione, io non è difficile trovare delle squadre con una cattiveria agonistica del genere. Ecco perché il sistema Siena è micidiale, no? Qui si parla di Pianigiani, ma come dire, di non parlare di Ferdinando Minucci, no? Che è quello, certo, che crea di fatto, poi ha creato il fenomeno Siena. E quello che mi è dispiaciuto dall'altra parte è una Milano che, anche con le dichiarazioni di Prodi, non so se tu ricordi, cioè, no? Forse i giocatori pensano alla partita col Fenerbahce. Questo non è una giustificazione. Questo non può essere vero. Tu giochi il match clou, la partita più importante, devi dimostrare che Milano c'è, e perdi 30 punti. Questa è stata una dimostrazione di grande, non so. Cosa ha voluto dire Siena Milano in quel modo? Che siamo i più forti. Sì, noi siamo, non solo siamo i più forti, ma non sbagliamo mai nessun acquisto. Questo hanno voluto dire, perché magari uno può dire, no, che Arradori non è ancora pronto, che Michelori non gioca mai, che Carraretto non può essere così determinante se ha troppi minuti, che Res è un cambio anche in altre squadre. Invece ha dimostrato che non è così, che sono giocatori che se inseriti in un contesto come quello di Siena sono determinanti e importanti, e quindi loro azzeccano sempre tutto. Eravamo insieme a vedere Varese-Siena, ti ricordi? Certo. Charlie Recalcati che batte la sua vecchia l'allievo. Siena, che batte l'allievo, che batte un sacco di cose quella sera, e Siena non ci aveva fatto una grande impressione. Ricordo tu mi dicesti: manca un terminale offensivo, non li vedo ancora a livello. Sì. Poi ho parlato anche con Pianigiani. Rapidamente è cambiato tutto. È cambiato tutto, e quella partita sembrava troppo evidente che tutti cercassero Kaukenas, e che anche l'altra squadra, anche il pubblico, anche noi che eravamo sugli spalti, sapevamo che la palla andava lì. Quindi era molto una Siena molto prevedibile, un Bob McCaleb facilmente scautizzabile, lui non vuole tirare da tre, quindi il pick and roll tutti sotto, passano sempre tutti sotto, Rakovic che non è abbastanza veloce quanto lo era Eze, andare, insomma questi piccoli difetti, questi piccoli grandi difetti erano stati evidenziati da tutto, mentre invece poi è cambiato, anche perché McCaleb ha una velocità, quando mette le marce, scala le marce, è imprendibile. È cambiato il modo di giocare di Siena, che riesce a sopperire alla mancanza di tiro di McCallum, perché tra l'altro non è così mancanza di tiro, perché le statistiche parlano di un buon tiro, diciamo che è meno sicuro, prende meno tiri rispetto a quello meno che tiratore, meno di tiratore di McIntyre. E in ogni caso ha cambiato, ma è sempre efficace, è quello, la bravura dell'allenatore è quella. Charlie Recalcati invece tra i buoni. Qui stiamo parlando solo dei uomini, però dei buoni, però tu mi metti questi nomi che sono automaticamente dei buoni. Charlie Recalcati sembrava il grande bollito del 2010, invece va a Varese e non ci sono, ci sono scusanti, sta facendo bene, sta rendendo Varese la squadra rivelazione della stagione. Io mi diverto molto di più a parlare dei cattivi. I cattivi, cattivi rendono... Chi vuoi mettere? Dai. Abbiamo messo solo LeBron James, poverino, è lì da solo. A parte il fatto che quella sera ci ho pensato, quando è tornato LeBron a Cleveland, insomma, erano gli ambienti che piacevano a te, no? Quelli ostili, che sì, poi non sì, è successo sì, mica un granché. È stato molto enfatizzata questa storia, però... Al di là di qualche cartello traditore, di qualche. Sì, non è stato, Carlo, come quando Figo è tornato a Barcellona, che gli hanno tirato la testa di maiale. Ma Mourinho dove lo metti? Tra i buoni o tra i cattivi? Vince la. Ma tu mi allora, metti... No. Vince la Champions League e va via con la macchina del Madrid. È pazzesco. Mi viene da dire che, come a livello comportamentale, tra i cattivi, perché. Insomma, lasciare dopo il triplete, però sai, dopo 45 anni un allenatore, dopo tutte le scusanti perché si sbaglia squadra, perché il Barcellona è meglio, perché il Chelsea è più forte, perché le altre squadre sono più complete, arriva un allenatore e ti regala il triplete, e questo è il triplete, te lo regala il comandante Mu. Quindi, come dire, come fare, mettere una leggenda tra i cattivi? La leggenda è automaticamente tra i buoni e tra le leggende che appendi al muro e le guardi come le pin-up degli anni 70. È così. Sì, però va via con la macchina del Real. È stata una caduta di stile, però considerando lo stile di Mourinho, che è molto teatrale, posso capirlo. Per un interista amerà per sempre Mourinho, perché ti ha regalato una cosa storica mai venuta, cioè ha vinto tutte e tre le competizioni, quindi sai... Che dire? È difficile. Si puoi anche perdonargli, anche se mi hanno detto che fosse molto arrabbiato a gennaio, perché gli hanno detto: guarda che l'Inter sta per prendere Blanc, ha firmato un'opzione con Blanc, poi scaduta ad aprile Blanc non è venuto per problemi familiari suoi, e quel giorno forse Mourinho non sono leggende metropolitane, ha deciso che sarebbe andato via, e poi magari quel modo un po' sgarbato è legato a questa vicenda, chi lo sa. Però lui è un, come dire, è uno di quei grandi, forse un regista sarebbe Hitchcock, no? Ha fatto un finale, anche se lui aveva pensato prima di andarsene, però un finale che era tutto un punto interrogativo. Ma le cinque palle che ha preso a Barcellona? Quello è la manita, no? La manita, come la chiamano in Spagna. Quello è stato un'umiliazione, però attenzione di non gettare la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, perché è un conto del campionato, un conto quando c'è la partita senza domani, cioè come quella di Champions League, certo. Che se perdi puoi uscire nei 90 minuti. Ragazzi, state con noi perché torniamo subito dopo questa pausa. Mario Boni sta con noi, Boni o Cattivi, con i cattivi soprattutto, torna subito dopo. Palla spicchi. Dunque, torniamo, appuntamento di Capodanno, di nuovo auguri a tutti, però il tema è questo. Caro Mario Boni, mi sembra siamo troppo boni. Troppo boni, qui bisogna cominciare a dare le legnate a destra e a sinistra. Dove la tiriamo la prima? La prima, ce ne sono una combination, mi viene a dire il mio amico grande Dino Meneghin, lo metterei tra i cattivi sempre con il sorriso sulle labbra, vuoi per la famosa wild card che mi fa schifo come soluzione, perché premia chi ha fatto male e boccia chi ha fatto bene, mi spiego, premia perché? Perché la penultima viene premiata attraverso un indennizzo, cioè mezzo milione di euro diviso tra 250.000, in base alle ultime indicazioni, che devono essere date dalla squadra che è arrivata penultima, e le altre 250 il consorzio delle squadre di Lega A. e quindi questa andrebbe a indennizzare chi è arrivata seconda nella Lega 2, quindi sì. Questo va a discapito del merito sportivo, certo. Cioè uno fa una squadra per vincere, sappiamo quanto sia importante la Lega 2 perché fa scoprire nuove piazze, nuove province, nuove situazioni interessanti, proprietari che vogliono emergere dal sommerso, e il merito sportivo deve essere sempre salvaguardato, anche perché non sono mi piace. D'accordo, sono e d'accordo. Poi l'altra iniziativa è quella, la A3, che molti mi starete pensando se è l'autostrada che in questo momento è piena, invece no, la A3 è il nuovo campionato che vogliono fare, con le wild card delle città che magari non sono nel basket, quali Torino, quali Genova, eccetera eccetera, e con una serie di retrocessioni e promozioni, e con 5 under. Cosa vuol dire 5 under? 5 giocatori sotto i 22 anni. Questa è per me una cosa che va a discapito ancora una volta del merito sportivo, perché il movimento italiano deve crescere non imponendo regole, ma facendole crescere dal basso. Sì, sono d'accordo, anche perché tu sai benissimo che non siamo negli Stati Uniti, no? Bravo. Qui abbiamo bisogno di partite che contano, e di partite che contano sia in Serie A con quelle che lottano per non retrocedere, che non hanno il cuscino di piume. Sono soldi, però non hanno cuscino di piume, paghiamo e rimaniamo comunque su. E quelle di sotto si fanno un mazzo così e poi rischiano di rimanere con un pugno di mosche. Assolutamente, anche perché la Lega 2, chi viene da sotto, ma non parlo solo della Lega 2, anche della Serie A dilettanti, hanno dimostrato di avere sempre un grande seguito, grande entusiasmo. Basta vedere in Serie A chi c'è adesso, abbiamo Brindisi, abbiamo Sassari che hanno fatto il record di abbonamenti, quindi il movimento è vivo, e queste due squadre fino a qualche anno fa giocavano in Serie A dilettanti, quindi il movimento italiano non è purtroppo l'America, dico purtroppo perché la pallacanestro sappiamo quanto sia importante negli Stati Uniti, cosa che non è in Italia, che è fagocitata dal fenomeno calcio, quindi le dinamiche devono essere diverse. Certamente, quindi il tuo amico Meneghin, cattivi. Lo mettiamo tra i cattivi, anche se non so quanto sia direttamente responsabile del Buondino. Sì, altra pagina che va in quella colonna lì è quella della rinuncia, secondo me, dell'Italia all'organizzazione degli europei. Certo. Non ci riusciamo, non riusciamo ad avere palazzetti, non riusciamo ad avere impianti, non riusciamo ad avere sponsor sufficienti, non ce la facciamo. Riusciamo solo a fare brutte figure. Sì, candidatura presentata e poi ritirata. E qui sai, un po' dovevamo pensarci prima, anche perché per evitare delle figuracce del genere. E quindi che questo è una situazione che non dovrebbe... L'Italia, un paese così importante a livello europeo, che vuole crescere, è un dispiacere che non sia riuscito a organizzare questi europei. D'altra parte, Mario, pensaci. Cioè, tu è qualche anno che giochi. Qualcheduno. No? Hai visto qualche palazzetto nuovo rispetto a quelli in cui tu giocavi a 22 anni? Pochissimi, basta pensare, sai, anche palazzetti che hanno l'aria condizionata per il periodo estivo, che sono è una variabile importante, no? Quello di creare le migliori condizioni per poter giocare. Questo accomuna anche gli stadi, no? Che sono obsoleti e che ci vorrebbe un restyling, però questo va di pari passi con le difficoltà che ci sono nel fare cose nuove qui in Italia. Mario, torniamo al campo e al campionato. Roma non è andata benissimo in questo inizio di stagione. E qui è un'altra. È arrivato un'altra. Boscia, tante aspettative. Cattivi. Boscia, medaglia d'argento ai mondiali con la Turchia. Boscia che è persona simpaticissima, vincente. Boniciolli, altra persona che mi sta simpatica sia culturalmente che come anche proprio il piacere di fare due chiacchiere, però ha fatto male l'anno scorso, non aveva centrato le Final Eight di Coppa Italia, continua su questa scia, nonostante una ripresina di fine anno, diciamo così, però ecco, da Roma, per gli investimenti che il patron, presidente Totti ha fatto, ci si aspetta di vedere una Roma là in cima alla classifica, un po' anche come Milano, perché al di là della finale di Milano, la finale è da considerare un fallimento. Voi direte, come una finale? È una finale, insomma, vuol dire che siamo arrivati fino in fondo, però insomma Milano ha altre aspettative, anche con gli investimenti fatti e con tutto quello, certo, che questo comporta. No, ma quello che dico, per arrivare in finale bisogna essere bravi. Milano è stata anche un po' fortunata, diciamolo, perché è vero che ha avuto un sacco di infortuni l'anno scorso, cosa rimarcata più volte, è vero che ha avuto un sacco di infortuni quest'anno, ed è vero, però ha avuto anche la fortuna di incontrare sul suo cammino, sulla sua strada, in due stagioni, squadre come Teramo. Montegranaro, Biella, il primo anno Teramo e Biella, il secondo anno Montegranaro e Caserta, non esattamente dei competitor, quantomeno che avevano l'ambizione di andare avanti. Erano squadre meravigliose ma appagate, diciamo così, e non profondissime. Eh sì, anche perché quando tu parli di squadre come una squadra come Milano, è solo la vittoria che ti lenisce qualunque altra situazione. Il fatto di non vincere e soprattutto soccombere in quella maniera a Siena, che ha dominato non solo la stagione regolare ma anche i playoff, ti fanno prendere il secondo posto come una sconfitta. Un conto se tu perdi alla quinta partita ad aver combattuto come una pantera, alla settima, perdonami, e come una belva, e un conto invece se perdi 4-0. Quindi ecco perché il risultato finale, sebbene sia un secondo posto, un risultato finale così severo va a inficiare un po' quella che è la stagione. Sì. Miglior allenatore del 2010, Pianigiani senza discussioni, o magari Pino Sacripanti con Caserta, o magari qualcun altro? Sì, anche lì c'è da dire, sai, Siena è facile allenare un gruppo già consolidato come quello che era Siena l'anno scorso, no? Poi abbiamo visto che Pianigiani è altrettanto bravo a creare dal nuovo un nuovo sistema perfettamente funzionante. Pianigiani è indubbiamente il migliore, mi viene anche da dire Sacripanti, perché Caserta ha fatto benissimo, come anche Capobianco, che poi è saltato quest'anno nel 2010, ha fatto due per due anni a Teramo, ha fatto benissimo. Ci sono tanti allenatori che hanno fatto bene. Lo stesso Frates ha fatto bene a Montegranaro. Siamo, insomma, in base a quello, alle potenzialità che uno ha, deve riuscire a ottenere il massimo. Secondo me è migliore Trinchieri. L'ho detto più volte, perché con Cantù è stata una Siena in piccolo come modo di giocare, come spirito. Io ricordo di aver visto un episodio di quella serie di semifinale con Siena, e vedevi proprio una squadra che non ne aveva più, cioè che era arrivata oltre i suoi limiti, eppure sembrava di vedere proprio una Siena in piccolo. Siena allo specchio, lo specchio rimpicciolente, se me lo consentite. No, dimenticavo Trinchieri, ottimo allenatore che ha dato un'identità ben precisa a Cantù, che ha fatto bene. Insomma, al di là di Pianigiani, che è un po' scontato dare lui l'allenatore 2010, ci sono tanti piccoli allenatori che vengono fuori e stanno facendo benissimo. Senti, una delle tue vecchie squadre, Teramo invece, che è partita davvero molto male, aveva puntato molto su Michael, ma tra i cattivi finisce Michael o chi l'ha preso? Ecco, bravo. Quando io ho letto sul giornale che Teramo era accostato a Michael, mi sono messo la mano nei capelli, perché Michael è un giocatore sopravvalutato, non sa giocare a basket, perché non sa giocare a basket, perché non sa passare la palla, non ha movimenti di post basso, spalla canestro, ha solo un tiro dai 12-15 metri, diciamo così, no, adesso esagero. Quindi ecco, la colpa non so se sia di Capobianco, che l'ha preso, quindi automaticamente Capobianco dai bravi va verso i cattivi, di Antonetti, il mio amico Carlo Antonetti, presidente, oppure proprio un giocatore che ha avuto una chance. Quando giochi a Milano ci sono tanti altri giocatori, quindi le tue mancanze a volte vengono coperte, e quindi proprio l'incapacità sua di essere giocatore, e la chance che ha avuto in una squadra medio piccola l'ha fallita. Senti, ma chi sono gli altri che non sanno giocare a basket? Ci sono diversi giocatori che non sanno giocare, che ti piacciono poco. Ma no, per esempio, adesso magari Bulleri è un giocatore che a me piace, perché è un giocatore che ha carattere, è un giocatore super, è un giocatore però che non sa passare la palla, per esempio. Aradori, che è tra l'altro nel mio quintetto ideale, è un giocatore che è un po' vittima delle percentuali, nel senso che tira a me non piacciono i giocatori che fanno, che tirano un 70%. Mi piacciono i giocatori che, io dico sempre ai miei compagni, il giocatore si vede quando sbaglia, perché è facile dopo il 5 su 5 continuare a tirare, il giocatore si vede quando parte con uno 0 su 5. Quindi ecco, mi è capitato una partita vedendo Aradori che dopo qualche errore si tendeva a estraniarsi dalla partita. Invece mi piace vedere i giocatori che aggrediscono il ferro, che lo vogliono mangiare, che vogliono che sia proprio come la tua amorosa. Senti, dicevo, tra poco andiamo qui, detto, no, a proposito di giocatori che per esempio a me non piacciono, commentando una sconfitta di Brindisi qualche tempo fa in cui Touré ne aveva fatti 20, ecco, ho detto, forse sono stato lì io cattivo, però se Touré è il tuo miglior giocatore e ne fa 20, allora no, non vai benissimo. Beh, Touré, sì, c'è il singolo episodio che Touré, però Touré non è un cattivo, io lo ricordo a Cantù, un gioco, il mancinaccio. A me piace poco. Piace, però sai, ti dà qualcosa al rimbalzo e ti dà qualche punto, non è un giocatore eccesso. Anche Brindisi, ecco, se lo metto tra i cattivi questo 2010, io inizio stagione a giugno dicevo che Brindisi sarebbe stata una delle grandi sorprese del campionato. C'era l'ipotetico Eric Williams nella informazione, non c'era l'infortunio di Chris Moreau, però Brindisi mi sta deludendo. Sì, è una squadra un po' di figurine, un po' di alla ricerca del grande nome. Mi è sembrata una squadra un po' da vetrina per questo ritorno alla massima serie. Sì, sai, Brindisi è un presidente appassionato, una piazza molto esigente, per come ha fatto la campagna acquisti era importante. Poi insomma, Radulovic che va via, Bavcic che viene tagliato, stanno un po' sistemando, però è un po' conseguenziale all'infortunio di Moreau e al fatto che Eric Williams non fosse venuto. Dai, andiamo col quintetto del 2010. Ma anche qui, sai, giocatore, quando tu parli di una squadra che vince per 4 anni consecutive, domina in Italia come Siena, e gran parte è fatta dal quintetto di Siena, quindi playmaker McIntyre. Sì. Da numero 3 mettiamo Sato, Romain Sato. E questi due non ci sono più. E non ci sono più. Il terzo, alla grande, per concludere con Siena, Lavrinovic, il lituano che... Non finisce di stupirci. Sembra Larry Bird a un certo punto di questa stagione. Sembrava Larry Bird, cioè, guardavi numeri, cifre, impatto sulle partite, sui due lati del campo, una roba mostruosa. E ti dirò di più: spesso e volentieri esce dalla panchina, sì. E quindi la capacità di cambiare la partita uscendo dalla panchina fa di un giocatore ancora più prendere ancora più meriti. Poi ho detto prima di Aradori, perché è il miglior realizzatore italiano, non possiamo dimenticarcelo, grande potenzialità. Questo però non vale come Siena, ma come Biella, come perché Biella. Titolo conquistato la maglia di Biella. Aradori, certo, come Aradori, sì. Pivot, Sherrod Ford, un po' per quello che ha fatto a Ferrara, anche se poi non hanno ottenuto la salvezza, e poi quello che sta facendo a Montegranaro, indicano un pivot che fa punti, rimbalzi, stoppate e valutazione altissima. Sì, certo che se vai a cercare un pivot italiano facciamo notte, e dobbiamo andare a fare festa. Non allora, dei cattivi dobbiamo mettere, a parte facciamo notte, Crosariol non riesce, è lì che non sai se pesce o carne, è in mezzo al guado. Crosariol, dove secondo le aspettative di tanti, non di tutti, di tanti, doveva essere il pivot emergente, non sta convincendo. Ci fermiamo ancora per il traffico, ultima pausa e poi gran finale con Buoni e Cattivi. Palla spicchi. Dai Mario, sentiamolo ancora una volta, cosa dici? Vai. Non so se a Flavio Tranquillo piace Vasco Rossi. Molto. Sì. Ciao Flavio. Ciao Flavio. Buongiorno. L'ultimo giorno dell'anno, ci stiamo divertendo con Buoni e Cattivi del 2010. Lasciaci divertire un po'. Poi dobbiamo andare. Vieni anche tu alla festa, no? Poi tutti a casa di Mario. Assolutamente. Invece con te Flavio volevo andare su Buoni e Cattivi della stagione NBA, se sei d'accordo. Partiamo, mi dici un paio di cattivi? Beh, mi sembra facile dire Ron Artest, uno cattivo che si è rivelato alla fine piuttosto buono, perché comunque in mezzo a mille sofferenze ha finito la stagione e la sua prestazione in gara 6 e gara 7 alla fine è stata la differenza in una delle finali NBA più equilibrate di sempre. Tra i cattivi la Cleveland della passata stagione? O ha delle attenuanti? Tra i cattivi, sempre inseguendo il gioco, bisogna metterci LeBron James, perché dopo averlo tenuto nei buoni e nei santi con l'aureola per 7 anni, adesso lo dobbiamo mettere nei cattivi perché ha perso, perché è andato via, perché è un traditore. E secondo me molto fumetto e poco pallacanestro, però certo possiamo metterlo tra i cattivi anche per convincimento, perché una cosa è essere fortissimi e debordanti come lui è, un'altra cosa è fare poi la differenza 5 contro 5 quando conta per davvero. Sì, sicuro. Io posso mettere in cima alla lista dei buoni Doc Rivers, perché mi sembra un allenatore bravissimo quanto sottovalutato. A me viene in mente come apice della stagione del 2010 cestistico, massima espressione assoluta, una serie finale tra Boston e Los Angeles che è stata qualcosa di indimenticabile. Si è parlato di Pierce, si è parlato di Garnett, si è parlato di tutti gli altri, ma questo allenatore lo si cita pochissimo. Sono molto d'accordo e onestamente diciamo il lato cestistico del suo allenare è un po' sottovalutato, è un po' comunque è eguagliabile da tantissimi altri allenatori di alto livello. Il lato gestione umana del personale no, perché allenare i Boston Celtics è come stare seduti su una bomba a mano con, basti la personalità di Rondo e Garnett, solo per dare un'idea di che tipo di cosa sia, e lui con una ricetta che è del tutto personale, con l'istinto, con, pensando con la sua testa, riesce a stare sotto su quella bomba e cosa posso dire, ha vinto un titolo e tre quarti, che non è poco. Sì, sì. Mario? Beh, no, io sono d'accordo con mi piace questa immagine dell'uomo seduto sulla bomba, perché è così, no, perché... però sai, quando una squadra, poi hai fatto una squadra di vecchi, no, tra virgolette, Boston, quando i vecchi decidono di giocare riescono a vedere il fine ultimo, no? Quindi è questo che è intrigante, una squadra che è già stata detta vecchia quest'anno con l'arrivo di Shaq. E poi io credo che Boston possa essere una delle grandi sorprese, se si può parlare di sorprese Boston. Sì, hanno voluto, Flavio, era una squadra capolinea a Boston, era una squadra dichiaratamente da ricostruire, invece si sono dati tutti un anno in più. La storia dirà se hanno fatto bene o hanno fatto male, o potevano lasciare il ricordo di quella finale in cui non dovevano nemmeno esserci e nella quale sono arrivati ad un paio di canestri dal battere i Lakers. Hanno fatto bene perché la logica NBA è chiara, non sempre sono delle scelte, ci sono delle costrizioni. Se tu hai un gruppo di questo tipo devi cercare di spremerlo nel senso più positivo del termine finché puoi. Poi riuscirci o meno è difficile. Io ho come l'impressione che in questa stagione potrebbe succedere che faranno molto meglio in stagione regolare, però non è necessario che gli astri da tutti i punti di vista siano così allineati nei playoff, e in più il far meglio in stagione regolare significa essere meno brillanti magari nei playoff rispetto a quello che è stato nella passata stagione. Voglio chiederti un'ultima cosa, Flavio. Jackson, Phil Jackson, dovesse fare il quarto three-peat, sarebbe l'allenatore più grande di sempre o lo è già abbondantemente? Beh, nella pallacanestro lo è già abbondantemente. Se facesse il quarto three-peat a livello di risultati, a livello di continuità, a livello di originalità del metodo, forse potrebbe anche porre la candidatura a più grande allenatore qualsiasi sport, qualsiasi epoca. Ma Flavio, una domanda mia, credi che i Lakers possano ripetersi oppure vedi qualche altra squadra che alla fine possa portare a casa il titolo? Difficile a fine anno con sei mesi davanti fare una previsione. Che possano ripetersi è pacifico, che ci riescano è legato probabilmente per la natura di quello che sono i playoff NBA a 3, 4, 5 possessi che sono scaglionati lungo la corsa di questa post-season. Io direi 51% sì, 49% no. In questo primo scorcio di stagione c'è una squadra che ti ha colpito come modo di giocare, come approccio, come novità, e c'è qualcuna che ti ha deluso, Flavio, invece? Ma diciamo non possiamo non citare i New York Knicks, che non sono nuovi nel modo di giocare, nel senso che il modo di giocare è quello, però hanno ribaltato una situazione terribile e secondo me mandano un certo tipo di messaggio, ovvero sia il sistema non vince e non perde. Tu puoi giocare un certo sistema e poi dipende da quello che fanno gli uomini, da quello che fanno i giocatori. Non è che il sistema dei Knicks o dei Phoenix Suns, che sono un'altra delle squadre di quest'anno, che lo scorso anno sono andati forse a controllare un rimbalzo poi preso da Artest addirittura ad eliminare i Lakers giocando esattamente lo stesso sistema. Ci sono stati altri momenti in cui i Knicks e i Suns sono stati considerati lo zimbello della Lega o sono stati considerati il massimo della Lega in assoluto. Secondo me è ora di sfatare questo mito. E qualcuno che ti ha deluso invece in questo inizio di stagione? Non come risultati, ma come approccio alla stagione stessa. Ma onestamente l'approccio di Miami, anche se poi ha cambiato marcia, è stato difficile da credere letteralmente. Le difficoltà ci stavano e ci stanno. Quell'approccio è stato abbastanza misterioso. È vero che poi è arrivata una serie di vittorie, però mi lascio sospettoso il tipo di difficoltà che hanno avuto, non il record, non le partite perse, ma il non riuscire a mettere la squadra davanti a tutto, e quella non so se è una cosa che riesce a imparare col tempo. Grazie Flavio, buon anno. Un abbraccio. Alla prossima, sarà già 2011, ma noi ci saremo naturalmente anche con Flavio Tranquillo. Io quest'anno faccio il tifo contro Miami, l'ho già dichiarato. Ebbene, io te lo dico, io l'ho già detto a tutti, lo faccio il tifo contro. Sai, apertamente. Il fatto, quella cosa che ha fatto LeBron, fatti fare tutti contro Miami, e fatti fare anche per l'ennesimo threepeat di Phil Jackson. Io sto con i Celtics, l'anno scorso mi hanno emozionato. Guarda, un po' anch'io, perché mi vecchi, no? E prendo un altro grande vecchio che corre nei suoi 20 minuti, Shaq, quindi i vecchi mi stanno automaticamente simpatici, chissà perché, caro. Chissà perché. No, comunque, al di là di tutto, Miami è una piazza senza storia, no? È una piazza senza storia. Vedi le partite, palazzetto mezzo vuoto, la gente che arriva mezz'ora dopo, va via mezz'ora prima. Insomma, posso dire che non mi piace Miami. Posso dire che una squadra non mi piace. Il clima non è male, eh? Bisogna dire che forse, sai, il clima ha fatto il resto. Quasi quasi un giretto si potrebbe anche fare. Senti, siamo quasi alla fine. Volevo farti sentire una cosa, uno degli highlights stagionali epico di uno dei miei giocatori preferiti ogni epoca, invece, Dennis Rodman. Senti. I'm sorry, guy. Go ahead. I said that LeBron is what's going on there, Dennis? What do you got going on back there? Watch this, ask her. Talk to him. Ask her. Questo è Dennis con Teresa. Teresa? Sì. Una volta secondo me ti chiamo e tu sei nelle stesse condizioni. La sai questa storia? Questo non lo so. La sai che lui ha telefonato lui a una radio di Miami per parlare di, intervenendo a un programma di basket come può essere Palla Spicchi. Ed era lì con Teresa. Aveva altro da fare. Nelle conoscenze seguo tutto quello che succede nello sport, però questo dice anche del personaggio, ce lo ricordiamo tutti, non cambi sicuramente. Ragazzi, con l'età, anche se l'età dovrebbe portare consiglio. Poi si è scusato, no? Il giorno dopo sono intervenuto e ha detto si scusa perché ha fatto questa cosa, era ubriaco. Questa è stata la scusa dello straordinario Dennis Rodman. Ripeto, che giocatore, ti ricordi? Fantastico. Da Detroit, poi quello che ha combinato a Chicago, le sue, quando si toglieva le scarpe a bordo campo, quando portava la ciclette per scaldarsi, i suoi capelli. Allora, io stasera per venire a fare festa con te metto la maglietta t-shirt nera di Dennis Rodman. Ce l'hai? Certo. Gigantografia di Dennis Rodman davanti con shorts di pelle e cappello da cowboy. E poi facciamo i Village People dopo. Mario, grazie, abbiamo già cominciato a bere, l'avrete capito anche voi. Grazie a Mario Boni, naturalmente. A voi. Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Buon anno a tutti, con Palla Spicchi torniamo venerdì prossimo. Ripeto, sarà già 2011, ma noi saremo qui. Buon anno.